Mein Name ist jetzt, meine Damen und Herren, es ist jetzt fast 12:15. Wir essen jetzt 12:30. Und deshalb schlage ich vor, dass wir die Diskussion schließen, wenn nicht dringende Fragen zu stellen sind. Ich möchte noch einmal danken Herrn Alberigo für sein Referat, aber auch danken und besonders danken den Herren, die sich an der Debatte lebhaft beteiligt haben, also Cody, Lutz und Herrn Weber und anderen, die beigetragen haben. Ich meine ja, dass die Frage, mit der wir zuletzt geschlossen haben, nämlich die Deutung des Kardinals Morone, ja eine der Kernfragen des Konzils ist. Denn schließlich, dass das Konzil von Trient glücklich zu Ende geführt worden ist, ist das Verdienst von Morone. Und das muss man mit aller Deutlichkeit noch einmal sagen. Und deshalb war es kein passus extra viam, wenn ich so sagen darf, wenn wir uns jetzt etwas über Morone und das Diktum, die Poca Religione unterhalten haben. Das ist für das ganze Konzil nicht bloß eine Rand, mehr als eine Randfrage. Nicht? Ich möchte jetzt wohl im Auftrag von Herrn Roger noch einmal daran erinnern, dass 12:30 Uhr jetzt Mittagessen ist, dass wir also Filippo II ed il Concilio di Trento. Quando negli ultimi giorni dell'anno 1559, dopo un abbastanza lungo conclave, fu eletto Pio IV, si apriva una nuova opportunità nello sconvolto ambiente religioso e politico europeo. Per inquadrare storicamente il momento, accenniamo alla scomparsa di figure importanti appartenenti ad una generazione protagonista dei problemi non risolti. Erano scompariti Lutero, Erasmo, Francesco I di Francia, Paolo IV, poco incline alla formula conciliare, l'imperatore Carlo V, la regina d'Inghilterra Maria Tudor e poco dopo Enrico II di Francia. La situazione religiosa era tutt'altro che tranquilla. La provisionalità dell'interim di Augsburgo lasciava i problemi nello statu quo esistente in attesa di un concilio che dovrebbe risolvere miracolosamente problemi ormai non facilmente risolubili. Inghilterra di nuovo si avviava all'anglicanesimo con l'accessione della regina Elisabetta. L'iconoclastia esplodeva in Scozia, mentre il primo sinodo calvinista a Parigi metteva in luce il consolidamento dei seguaci del Calvino vittoriosi anche nel Palatinato con la conversione di Federico III. Più lento. Nel 1560 la regina Elizabeth presta il suo appoggio alla nobiltà protestante scozzese, che presto sussulta con l'implantazione della Chiesa riformata e la costruzione dell'Och Nos. Anche l'Irlanda è sommessa all'anglicanesimo. Dal lato cattolico, le persecuzioni contro i protestanti in Spagna nel 59, Sevilla e Valladolid. I due index di Paolo IV e dell'Inquisizione spagnola, sempre nel 59. La burrasca riformatrice e persecutoria degli ultimi mesi di Papa Carafa contribuiscono ad un irrigidimento generale del clima religioso. Filippo II, re di Spagna, dopo la rinuncia di Carlo V nel 56, trattenutosi in Fiandra fino al 59, arrivò quest'anno in Spagna nel mese di ottobre, pochi mesi prima dell'elezione di Pio IV. Aveva soltanto 32 anni e troppe e gravissime responsabilità. Pochi giorni dopo la sua elezione, Pio IV annunciò in concistorio il suo proposito di occuparsi della riforma della Chiesa e la sua volontà di confermare il Concilio di Trento. Questo accenno al dimenticato e sospetto concilio faceva irrompere in scena un nuovo orizzonte. Il concilio non era finito, malgrado sembrasse morto. Dopo tanti appelli al concilio lungo il secolo e dopo tante speranze fallite, ancora era vivo il desio di una grande assemblea cristiana che affrontasse i problemi. Nel maggio del 59 informava Filippo il conte di Luna sopra l'adunanza dei protestanti a Worms. I cattolici, dice, tutto lo rimettono al concilio e vogliono che questo si domandi e procuri. Anche i protestanti non erano tanto contrari al concilio, ma vi mettevano delle condizioni e restrizioni non facilmente accettabili. Per esempio, il Papa non doveva essere il capo del concilio e, se non si arrivasse ad un accordo nel futuro concilio, si lascerebbe loro la libertà. La risposta del re Filippo da Bruxelles nel 27 maggio del 59, ancora vivente Paolo IV, è abbastanza giusta ed esplicita. La via del concilio è la dritta e vera, se a questo possono essere attratti i protestanti. E qui sempre si è visto l'uscita meschina e portano secco troppo danno, ma ne si può tanto differenti, è molto difficile accertare il cammino. Tuttavia, mantiene qualche speranza. Se Sua Santità Paolo IV proponesse qualcosa, come molti la pensano che farà sul concilio, si potrebbe riuscire. La proposta venne infatti poco dopo da Pio IV. Il suo accenno del mese di gennaio si vide confermato per il nunzio Ottaviano Raverta, che comunicò al re Filippo ai fini di marzo il desiderio del Papa di celebrare il concilio, chiedendo l'appoggio di Filippo e i suoi consigli circa il luogo e il tempo adatto. Meno come proposito. Ancora si dovevano risolvere non poche difficoltà, come vedremo adesso. Quale fu allora la politica e l'atteggiamento di Filippo II davanti a questo grande avvenimento? Prima di rispondere a questa domanda, mettiamo alcune precisioni metodologiche. Disponiamo di un materiale documentale abbastanza completo e già pubblicato. Non ho fatto nuove ricerche d'archivio, ma mi sono limitato ad esaminare i documenti pubblicati. Non è superfluo domandarsi cosa significa l'atteggiamento di un re di 32 anni appena sposato con Isabel de Valois. Come capita a tutti quelli che si trovano al vertice del potere, il suo atteggiamento viene condizionato dalle informazioni, dai pareri dei consiglieri, eccetera, e si riflette sia in documenti personali o che almeno i nomi dei suoi ambasciatori Vargas, Luna, Pescara, Ávila, 152 volte, in un'opera così vasta e ricca come il volume quarto della storia del concilio edita dal Giedin. Sarebbe giusto sottrarre i lineamenti della politica di Filippo II da tutta questa massa documentale, in quanto gli ambasciatori sarebbero i rappresentanti e gli esecutori della volontà reale. Ma, pretendendo sunteggiare il punto di vista specifico e personale del re, ci limiteremmo soprattutto ad analizzare i documenti direttamente provenienti da Filippo II. Sono in totale una cinquantina, fra lettere, dispacci e istruzioni. Indubbiamente, l'atteggiamento di Filippo II dipendeva grandemente dalle informazioni ricevute, cioè dai dispacci del conte di Luna da Vienna e dall'ambasciatore Vargas a Roma. Il primo più indulgente e raffinato, il secondo più intransigente e netto. Se eccettiamo i documenti personali, il concilio, l'imperatore e il papa erano contemplati da Filippo II attraverso i dispacci dei suoi agenti. Con il ritardo delle lettere, di trovarsi sempre in coda agli avvenimenti, alle volte perfino spassato. Lontano dallo scenario Roma, Vienna, Trento, Filippo II sembra la scia rimasta sul mare quando il piroscafo è sparito. A scopo metodologico dividiamo il nostro tema in tre parti. L'apertura del concilio, secondo il altro che facile e liscio. Dopo un primo accenno al concilio nel concistoro del mese di gennaio, il Papa svelò solennemente il suo proposito davanti agli ambasciatori nel mese di luglio del 60, pubblicò la bolla ad regime nel novembre, nominò i legati nel marzo del 61 e vide l'inizio del concilio nei primi giorni del 62. 2 anni di fatiche e spinose trattative. Un concilio senza una minima adesione dei principi era un puro sogno, ma voler combinare gli interessi contrastanti di essi, dei principi, era un altro modo di sogno. Erano tanto diverso il retroscena di ognuno di loro. Inizialmente Filippo II accolse positivamente l'iniziativa di Pio IV e promise la sua più decisa assistenza dopo consultazione fatta ai suoi consiglieri. Vedeva il concilio come potente rimedio ai bisogni della cristianità. Perfino volse a tirare verso il concilio all'imperatore. Ben presto nacque un contrasto evidente e decisivo. Mentre l'imperatore, come anche la Francia, volevano un nuovo concilio, Filippo puntava addirittura sulla continuazione del sospetto concilio di Trento. Per Ferdinando, la continuazione significava la rottura coi protestanti e la guerra. Per Filippo un nuovo concilio significava la rottura con quello che era stato fatto prima. Indizione nuova o continuazione rappresentava la validità o legittimità o meno delle 2 prime tappe del concilio. Nella drammatica battaglia diplomatica sostenuta a 4 dal Papa, dall'imperatore e dai re di Spagna e di Francia, questo è il punto più saldo della politica di Filippo II. La minaccia di un concilio nazionale francese favorì senza indugi la messa in campo. È disposto ad accettare cambiamenti di nuovo, per esempio Bastioni e Francois, con eventuali modi per la celebrazione del concilio, per cortesia con la Francia. Però, ma non mutarono la ferma convinzione di Re Filippo. Si doveva levare la sospensione del 1552, sanare ed approvare quanto era stato fatto e continuare riforme previe al concilio, ampie concessioni alle pretese protestanti, la pace fra l'Inghilterra e la Scozia, e temeva i turbamenti che nascerebbero dal concilio. Filippo voleva il concilio, la riforma fatta in concilio e ispirato dal Vargas, diffidava dalle promesse dei protestanti e della Francia. La legazione del Delfino in Germania, del Cardinal Tournon in Francia e la missione di Don Antonio di Toledo in Francia a nome di Re di Spagna non ebbero successo. Ai primi di settembre Filippo sembra privo di ogni speranza. Inoltre provò un vivo rincrescimento quando seppe che il Papa aveva fatto consultazioni circa la validità dei decreti, almeno deve parlarsene. Mettere in dubbio il sospetto concilio impedirebbe il concilio e sarebbe la rovina della Santa Sede. A sua volta, il Papa si rammarica di essere stato calunniato, cioè di non voler confermare il decreto sulla giustificazione. È vero che da quanto si apprende dai dispacci del Vargas, abbastanza numerosi, non si esclude una certa ambiguità nel modo di agire da Pio IV. Effettivamente sommette a consultazione la questione e Vargas assicura che ad un certo punto fu disposto a convocare un nuovo concilio per attrarre i protestanti. Nei mesi seguenti Pio IV adopererà in proposito un atteggiamento chiaramente positivo e sia ad incoraggiare e dar legge a quello che dovrebbe essere. Intimorito dal concilio francese e poco animato dalle notizie dei protestanti radunati appresso al Reno, quando pubblicò la bolla del giubileo e la bolla del concilio, evitò squisitamente ogni riferimento alla continuazione del concilio, per mantenere il filo dell'adesione dell'imperatore della Francia. Il disgusto del Vargas fu partecipato anche dal re. Malgrado le chiarificazioni di Pio IV in 2 brevi, ove chiedeva il favore di Filippo spiegando le sue vere intenzioni, nonostante aver utilizzato la parola induzione nella sua folla, per soddisfare l'imperatore e il re di Francia, non ebbe il consenso di Filippo, assecondato dai suoi consiglieri. Il Vargas non si piegava a vie di mezzo. Una nuova invenzione, dice, era il trionfo degli eredi. L'intenzione del Papa era buona, ma la via scelta era sbagliata. L'arcivescovo Valdés, inquisitore generale, uno dei consiglieri di Filippo II, esprimeva il suo parere schietamente. Dice, il testo della bolla non poteva essere peggiore, né più alieno di quello che conveniva al bene del negozio e di quello che si pretende e desidera a rimedio degli errori ed abusi che per i nostri peccati di presente ci sono nella cristianità. Ai fini del mese di novembre, il punto di vista globale di Filippo viene espresso in un suo dispaccio al Vargas. L'imperatore, dice, era favorevole personalmente, ma il concilio non era grato ai protestanti e ad altri principi. Si potrà dire con questo al concilio il suo fine principale e alla riforma tutto il peso e maestà del concilio. Il Papa è parte in causa e accusata, e questo non impedisce che il Papa proceda a qualche riforma. La tensione aumentò in occasione della bolla suddetta. Filippo II si mostrò discorde e sorpreso e sospese la comunicazione della bolla ai vescovi finché si vedesse come la interpretavano l'imperatore e il re di Francia. I primi mesi dell'anno 62 la questione della continuazione o meno, ma sollecitare l'opportuno chiarimento del Papa prima del concilio, mantenere i vescovi allerta per il concilio, ma non inviarli, temporeggiare col pretesto delle adunanze di Germania e della Francia, ecco la situazione in questo momento. Sostanzialmente questi capitoli dai consiglieri costituiscono il punto di vista espresso dal re nella speciale missione conferita a Don Giovanni d'Ayala presso Pio IV nel mese seguente e svoltasi in stretta dipendenza da questi principi. Le diverse istruzioni di cui fu provvisto l'Ayala insistono nei medesimi punti e mettono in rilievo la grandissima importanza del suo compito, la cui ragione fondamentale è che il re accedette al concilio a distanza del Papa per evitare il concilio nazionale francese, sempre sotto condizione e sotto presupposto di continuare il concilio, non di fare nuova indizione, credendo che questa fosse la determinazione del Papa fin dall'inizio. Su questi presupposti il re non era contento con la bolla, molto diversa da quanto dal Papa si aveva inteso. Il re riteneva i vescovi e voleva assolutamente una risposta chiara prima dell'apertura del concilio, in modo di evitare che quelli che venissero al concilio volessero trattar di nuovo le cose. In nessun modo conveniva riunire il concilio sotto questa ambiguità. Ayala doveva mettere il Papa alle strette e non accontentarsi con evasioni e parole generali. Nemmeno doveva accettare che questa dichiarazione si tralasciasse a concilio riunito o fosse fatta a mezzo di un particolare breve segreto di Sua Santità. Frattanto, il viceré di Napoli e di Sicilia e il governatore di Milano furono avvertiti di mantenere pronti i vescovi a partire per il concilio, ma ad indicazione del Vargas. Le trattative da Ayala a Roma nel mese di aprile e maggio furono assai difficili. In alcun momento si perdette ogni speranza d'accordo. Pio IV rifiutava la modificazione o modifica nella bolla e qualsiasi cambiamento pubblico, benché assicurava la continuazione del concilio e la validità di Trento e l'opportuno annuncio della sua vera intenzione. Perfino offrì al re Filippo una dichiarazione apposta in due brevi segreti. Se accettiamo le informazioni del Vargas, l'atteggiamento di Pio IV non era privo di una certa ambiguità, dato che proprio in questo medesimo tempo ancora esitava sulla validità dei decreti tridentini prima della conferma pontificia e confessava all'ambasciatore imperiale che faceva a meno la continuazione o no del concilio, seppure si concertassero i protestanti. Il pessimismo del Vargas è palese. Il Papa non vuole né desidera il concilio, anziché mostrare che lo desidera, che lui è disposto e i colpevoli sono gli altri, specialmente il Re Filippo. Il disagio del Papa e dell'Imperatore in riguardo della politica di Filippo ci conduce ad un paradosso. Filippo II era il più potente, quasi l'unico sostegno valido del Concilio e del Papa, ma risultava alleato scomodo e faceva figura di essere l'unico che metteva i bastoni alle ruote. Forse anche per questo Filippo II cedette e cambiò strada. Nella lettera a Pio IV dal 31 maggio accettò come soluzione il breve, purché si dichiarasse espressamente la continuazione del concilio e la validità dei decreti anteriori. Il breve fu spedito il 16 di luglio. Ivi si diceva che si trattava di continuazione. Pio IV aggiungeva che questa era stata sempre la sua mente e si dichiarava disposto a morire per i vecchi decreti tridentini. Il puntiglioso Vargas avvertì il Papa che non si esprimeva sufficientemente la validità dei decreti e mise le trattative a punto di rottura. Con questi brevi in mano, Filippo II si credette sicuro e da questo punto mise tutte le sue forze in favore del Concilio, occupandosi dell'accurata scelta dei vescovi che dovevano partecipare al Concilio. Sulle liste fornite degli eventuali partecipanti scrisse annotazioni autografe riguardanti le doti personali, la scienza, eccetera, di ognuno, che testimoniano il senso di responsabilità del monarca. In lettera apposita dal 18 agosto, Re Filippo mostrava la sua soddisfazione dall'accordo compiuto e si scusava dalle istanze fatte in una questione di importanza vitale. Nei mesi seguenti ci furono ancora dei rabuffi di Pio IV, che preoccupato dal concilio francese ne dichiarava colpevole. Nel 61 cominciarono ad arrivare a Trento i vescovi sudditi di Filippo II. Alla fine di questo punto possiamo fare alcune domande o commenti. Fu veramente possibile in quei tempi un concilio ove concordassero o almeno si radunassero cattolici e protestanti? Questo è uno dei punti fondamentali del dissidio fra l'imperatore e Re Filippo. Seconda domanda: Pio IV fermo nella continuazione del concilio di Trento senza questa pressione di Filippo II? Certo, il collegamento fra il passato e il presente del concilio diede a questo un'impronta specifica. Che sarebbe successo e per il passato di Trento e per l'indomani religioso di Europa se in quel momento vi fosse combinato un nuovo concilio? Punto secondo, il concilio. Se l'atteggiamento di Filippo II fu decisivo, almeno in senso negativo, di non mettere ostacoli per la riapertura del concilio, naturalmente dalla mia prospettiva, gli interventi frequentissimi e decisi dei suoi ambasciatori, Pescara e soprattutto il Luna a Trento e del Vargas a Roma. Il numero dei documenti controllati è significativo. 30 lettere per il biennio anteconciliare, anni 60-61, una ventina di lettere per il periodo conciliare, 62-64. Lontano dalla scena, era ben informato dai suoi rappresentanti e perfino dai vescovi stessi che scrivevano al re. Seguì l'andamento del concilio, particolarmente difficile per l'irrigidimento degli spagnoli, non di tutto a torto. Il concilio libero ed universale, voluto ed annunciato da Pio IV nella sua dichiarazione del 3 giugno del 1560, non era veramente universale, data l'assenza dei protestanti dell'Inghilterra e anche inizialmente dalla Francia. Sarebbe stato almeno libero? La linea da seguire appare nelle istruzioni romane a Simonetta. Dogma e riforma, esclusa la riforma della corte romana riservata al Papa. Assoluta esclusione di qualsiasi impostazione della questione sulla superiorità del concilio sul Papa. ordine espresso di annunciare la continuazione del concilio e la validità dei decreti anteriori. Questo ordine, come sappiamo, non fu compiuto, a distanza dell'imperatore e a rammarico degli spagnoli. Anche nella trattazione dei temi conciliari si volle all'inizio dissimulare un po' la continuazione di fatto del concilio sospeso. Il grado di vacillazione di Pio IV è clamoroso. In lettera del 30 maggio ordinava di nuovo ai legati la dichiarazione della continuità, avuto riguardo alle promesse scritte fatte a Re Filippo, ma all'indomani lasciava cotale iniziativa alla libera scelta dei legati, che dal resto si mantennero in silenzio. La battaglia intorno alla libertà del concilio si svolse da parte spagnola a proposito della clausola proponentibus legatis descritta e studiata dal Diedini. Resistenze, rifiuti, minaccia clamorosa di protesta da parte dei spagnoli. Le allarme del Vargas a Roma erano senz'altro preoccupanti, quando descrive il furore e le grida di Pio IV contro i vescovi spagnoli che volevano essere dei papi e perfino contro il re. Anche la disputa intorno al Jus Divinum dei vescovi diventò accannita. La fortissima pressione dell'imperatore contro ogni dichiarazione di continuità, con ordine di abbandonare il concilio in caso contrario, metteva la prosecuzione del concilio in estrema difficoltà. Il pericolo di sospensione era fortissimo. Ed ecco l'intervento grave di Filippo II, espressione della sua volontà conciliatrice. I vescovi, secondo il suo ordine, non dovevano presentare la sua protesta solenne e dovevano rinunciare ad insistere nella continuazione del concilio, la cui dichiarazione era rimandata a più tardi. Anche dalla parte dell'imperatore aumentavano le incertezze e le ambiguità. Opposto ad ogni dichiarazione di continuità, voleva la riforma e la libertà del concilio. In confessione fatta a Luna, diceva che la sua intenzione mai fu incline alla perdita di autorità del concilio passato, ma considerava inopportuna la dichiarazione di continuità che rovinerebbe il concilio. Le domande fatte dai protestanti radunati a Francoforte sollecitavano delle concessioni e nutrivano ancora un soffio di speranza nell'imperatore. Ecco il secondo intervento di Filippo II, raccomandando a Ferdinando la più estrema prudenza e supplicando con todo encarecimiento che mire mucho en ello y tenga la mano que no se trate ni permita cosa ninguna que sea en ofensa de la Iglesia Católica ni detrimento de la autoridad de la sede apostólica. L'arrivo del cardinal Lorena con i vescovi francesi cambiò notevolmente l'ambiente conciliare. Un'eventuale alleanza fra spagnoli, francesi ed imperiali metteva in pericolo il controllo del concilio da parte dei legati. Ercole Pagnano mise in guardia i vescovi spagnoli contro l'animosità dei francesi verso il Papa, sotto pretesto che la causa del re e del Papa erano congiunte. Le lagnanze di Pio IV contro i vescovi spagnoli, per parole dette e per l'avvicinamento ai francesi e al suo ambasciatore, provocarono le raccomandazioni di Filippo al suo episcopato. Dovevano procedere con riguardo alla sede apostolica, con prudenza e moderazione, sia privatamente sia nella comunicazione con gli altri. Salva sempre la libertà e la coscienza, era necessaria di che il re la prudenza ed esterità, in piena soddisfazione di sua santità e dei suoi ministri e senza darne occasione di scandalo. Negli ultimi mesi del 62, l'atteggiamento di Filippo II è largamente espresso nelle istruzioni consegnate al commendatore Avila, la cui missione presso Pio IV fu svolta un mese dopo. Una delle istruzioni dal 30 novembre, pubblicata dal Tejada, ed un'altra dal 28 dicembre, edita dal Geringer. Sono due documenti pregevoli, anzi io credo i più preziosi e significativi della mente di Filippo II, soprattutto il testo edito dal Tejada. Il Concilio appare in questi documenti in tutta la sua grandezza e importanza, come l'ultimo rifugio ove si può sperare il rimedio dei mali e divisioni tra cristiani e di quelli che nasceranno se non si guarisce il cancro. Il Concilio, dice, è il principal mezzo lasciato da Dio alla Chiesa, con espressioni del più grande rispetto, riverenza e adesione. Come confessioni da parte, le istruzioni esprimono quale sia stato in anticipo ed era in quel momento l'atteggiamento di Filippo II. E a questo punto mi fa una piccola storia del suo atteggiamento. Dopo un primissimo momento di vacillazione e di incertezza sopra l'opportunità e convenienza del Concilio, il re si aderì alla volontà del Papa. E sotto promessa chiarificatrice in contrario, cedette alla convocazione del Concilio in termini esternamente ambigui, interpretabili in vari sensi ed eventualmente motivi di dissidio, in un punto così sostanziale. Ordinariamente la Chiesa rimarrebbe affievolita. Dunque, aspettare, ascoltare, ricevere, persuadere, sì. Nel resto ci si vuole considerazione e prudenza. Il cambiamento operato in Francia, la partecipazione dei francesi al Concilio, è un nuovo motivo per rassicurare le aspettative. Di fronte all'operato del Concilio, Filippo II credeva assai trattati i dogmi, ma quasi completamente da fare la riforma. Appunto per questo sconsigliava ogni premura ed era contro il fine frettoloso del Concilio. Ci voleva una riforma sostanziale, vera e generale, il cui vasto programma mirava il rimedio degli eccessi, abusi e disordini. Delicatamente, ma abbastanza francamente, raccomanda una riforma fatta dal Concilio, quietando le prevenzioni curiali contrarie. Una riforma conciliare non danneggia la Santa Sede e non presenta gli inconvenienti e pericoli temuti dai curiali. Finalmente, quanto alla libertà del Concilio, uno dei punti fondamentali, vediamo Filippo II staccarsi d'una parte dalla libertà voluta dai protestanti, ma tuttavia accostarsi alla libertà ragionevolmente desiderata dai padri conforme all'uso tradizionale dei concili. Nitidamente espone in che consista questa giusta libertà, a suo avviso. Libertà di proporre in primo luogo, cioè di non trovarsi rigidamente sommessi ai programmi dei legati, benché sia giustissimo che loro siano i necessari responsabili del buon ordine del Concilio. L'impostazione rigida di un ordine che escluda strettamente ogni altra iniziativa non tutela sufficientemente la dovuta libertà. In questo rispetto, all'eventuale iniziativa consiste sostanzialissimamente la libertà, un'espressione tolta da una lettera di Filippo II. La supplica di Filippo II in proposito è insistente. In secondo luogo, propone la libertà nelle deliberazioni e voti, senza intimidazioni, allettamenti e lusinghe, rilasciando un voto di fiducia ai vescovi e non dando occasione di ramaricchio a quanti vogliono affievolire l'autorità del Concilio, dicendo che non c'è libertà. Finalmente, avvertito dalle domande dell'imperatore in favore della comunione subutraque spezie e del matrimonio dei sacerdoti, Filippo II si mostra decisamente contrario, estimando tali concessioni poco fruttuose di fronte ai protestanti e rovinose per i cattolici. Anche se da tali concessioni dipendesse la riduzione e conversione dei protestanti, ci sarebbe molto da considerare. In tal senso si espresse Filippo II anche in lettere all'imperatore e al re Massimiliano. Alcuni mesi più tardi, alle lagnanze dell'imperatore circa la mancanza di libertà del Concilio e il pericolo di sospensione prima di adoperarsi la riforma, Filippo II indusse l'ambasciatore Luna ad assicurare la libertà ed efficacia riformatrice del Concilio, l'unione dei vescovi spagnoli e la loro adesione alla Santa Sede, nel marzo del 63. Nel momento del Wendepunkt del Concilio, Filippo II insiste in questi punti in una lettera all'imperatore. Non conviene finire frettolosamente il Concilio. D'altra parte è ancora necessaria la sua libertà e la vera riforma. mi adopererò sempre come nella cosa che più desidero in questa vita. Quando il concilio pareva sprofondarsi nella grande crisi descritta dal Yedin, l'appoggio di Re Filippo si fa più deciso ancora. Importa moltissimo portare avanti il concilio con l'autorità e libertà che si deve, perché l'unico e vero rimedio della Chiesa. In modo più concreto e particolareggiato, la mente di Filippo II viene espressa in parecchie lettere a Luna e all'imperatore nei mesi di agosto, settembre e ottobre del 1563. Sul proponentibus legati, nonostante le dichiarazioni fatte in proposito, Filippo II resistette e nemmeno volse che si votasse la questione in concilio. La missione di questo uso o formula sarebbe nociva per i futuri concili. A suo avviso, la concessione di libertà di proporre all'imperatore e o agli ambasciatori non è una soluzione valida, dato che l'esclusione dei padri impedisce la loro libertà. Ecco la sua frase: tocca nell'anima e sostanza della libertà del concilio ed è contrario all'uso della Chiesa. Anche in un altro punto insiste con fermezza: non si deve tramandare alla fine del concilio la promessa dichiarazione sulla continuità ancora non compiuta e non si devono ammettere polizze segrete dai legati. D'accordo con Luna, le dispiace l'uso introdotto di congregazioni particolari e ristrette che cambiano l'ordine usuale dei concili. Senza voler interferire nella libertà dei padri, intendiamo spagnoli, non crede tanto essenziale la questione del jus divinum ed insinua la concordia, la moderazione e senz'altro l'esclusione della questione sopra i rapporti fra Papa e Concilio. Malgrado i lamenti del Papa contro i vescovi spagnoli, il re si manifesta soddisfatto e mostra la sua fiducia nella loro coscienza, scienza e adesione alla Santa Sede. Ancora una volta si manifesta restio contro l'affrettamento nel finire il concilio e desidera che si proceda con matura deliberazione all'ansiata riforma e invia a Luna due memoriali, uno generale e il secondo più adatto alla situazione spagnola, affinché siano presentati in momento opportuno. Quando vide che non poteva evitare la conclusione del concilio, Filippo accettò la situazione come un mal minore, in ogni caso più conveniente che la sospensione sine die. Finalmente si oppose decisamente ad una conferma pontificia del concilio nel supposto che il Papa potrebbe revisare e cambiare i decreti conciliari. In questo modo il concilio sarebbe annientato. Comunque, questo difensore dell'autorità e libertà del concilio offre nella sua politica concreta delle contraddizioni, nel senso che non è tanto rispettoso quando le iniziative di codesta libertà toccano i suoi interessi particolari. Ecco un elenco dei temi su cui Filippo II oppone delle riserve o interventi diretti. Norme che cambiano gli usi dell'Inquisizione spagnola, questo non si tocca. L'approvazione fatta dalla commissione dell'Index del Catechismo dell'Arcivescovo Carranza, imprigionato dall'Inquisizione. Le norme per la promozione episcopale che incidevano sul patronato reale. La revisione di certi soprusi nel reame di Napoli. La riserva pontificia delle cause episcopali. La mancata riforma dei principi, eccetera. La riforma doveva colpire tutti, tranne lui e i suoi diritti. Aveva ragione in molte cose, ma non in tutte. Una certa coscienza messianica del suo peso e responsabilità e dei suoi punti di vista pervade tutta la sua politica ecclesiastica anche dopo il concilio, col pericolo di voler convertire il Papa in suo capellano. Con tutto ciò, in confronto con tutti gli altri principi cattolici interessati al concilio, senza dubbio è doveroso riconoscere che fra tutti fu il più deciso sostenitore del concilio. Da quanto risulta dagli espressivi dispacci del Vargas, l'atteggiamento di Pio IV non è privo di mutamenti vivissimi che ci fanno ricordare Paolo IV. Dopo beghe e ribuffi accalorati succedevano momenti di fervido elogio. In uno di questi Pio IV riconobbe francamente la situazione. Dopo Dio pone in lei il maggior presidio e fondamento che possa avere la nostra religione e questa Santa Sede. Terzo punto, molto breve, il post-concilio. Il successo del concilio fu vario nelle diverse nazioni europee, anche entro l'ambito cattolico. Mentre Portogallo e la Polonia l'accettarono, la Francia mantenne una lunga resistenza, soprattutto in riguardo ai decreti disciplinari, non conclusa, anzi aggravata, all'inizio del secolo seguente. Quale fu il caso per la Spagna e concretamente l'atteggiamento di Filippo II? Siamo ben informati quest'oggi su alcuni concili provinciali, per esempio quello di Toledo e di Granada, ci sono stati altri, per esempio quello di Braga in Portogallo, quello di Salamanca, quello di Tarragona e quello di Valencia. Orbene, da quanto si deduce dalla documentazione conosciuta, possiamo concludere sinteticamente in questi termini. Primo, come saputo, il concilio fu ufficialmente accettato mediante cedola reale del 12 luglio 1564, che formò parte dal corpo legale spagnolo e lo possiamo vedere nella nuovissima recopilazione legge 13, titolo primo, libro primo. Su questo punto bisogna dire che già nel 1874 avvertiva il nostro storico La Fuente sul errore diffuso generalmente sul supposto adicamento a questa accettazione di una frase, di una clausola, senza pregiudizio delle leggi del regno e delle prerogative della corona. Dalla lettura della cedola reale, la cui fotocopia ha portato la Monsignor Gelin, non risulta questa modifica. Eppure storici come il Sergeant Retter ed il Dan Pastor e persino anche credo il Gelin hanno continuato a parlarne senza un documento che giustifichi tale affermazione. Il padre Giorca, in un apposito studio abbastanza recente sull'argomento, ha insistito sul caso. Non esiste una clausola legale limitatrice, almeno per la Spagna. Non risulta che fosse aggiunta mai una tale limitazione, e storicamente consta il contrario da tutti i documenti pubblicati. Considerata la data della cedola reale, 12 luglio, si potrebbe casomai parlare di un certo ritardo. Ma bisogna aver presente che se ci fu un'approvazione verbale di Pio IV del Concilio nel gennaio del 64, la bolla papale Benedictus Deus non uscì fino al giugno dello stesso anno. Vale a dire che ci vuole un mese perché la notizia di questa bolla arrivasse in Spagna, vuol dire che l'approvazione del re è stata molto rapida. D'altra parte, il testo della legge, di questa cedola reale di accettazione, è completamente franco e positivo, senza restrizioni. Accettiamo il concilio, vogliamo che sia osservato in Spagna, faremo adempirlo con tutta la nostra autorità, ordiniamo i vescovi, eccetera, eccetera, che facciano pubblici i decreti e li osservino, ordiniamo ai governatori che prestino il suo favore e aiuto finché sia osservato il concilio. Tutto un lungo testo che non leggo. In favore di tale accettazione franca del Concilio sta anche il fatto che Re Filippo fu il promotore dei sinodi provinciali, la cui missione, come sapete, non era altra che la missione e osservanza del Concilio. Le lettere ai vescovi, per esempio al vescovo Guerrero, arcivescovo di Granada, le istanze fatte dal re all'arcivescovo di Siviglia, alquanto restio alla celebrazione del sinodo, che infatti non lo promosse, parlano abbastanza chiaramente dell'interesse del re alla applicazione pratica del concilio. Anzi, si sembra troppo immerso in questo affare, volendo dirigere e controllare i sinodi. In un certo senso, le pressioni fatte sopra i vescovi, le direttrici adoperate e soprattutto la presenza ai singoli sinodi, tranne quello di Saragossa, da un rappresentante del re, ci può apparire come una ingerenza cesaropapista al re. Questa interferenza reale puntava verso l'efficacia dell'applicazione del concilio, per di grazia nel deciso rifiuto del re all'opposizione dei capitoli. Lontano dai giochi conciliari, si voleva far sentire tutto il peso del concilio. Senz'altro è presente un certo senso di sfiducia verso la corte romana e il suo atteggiamento post-conciliare e verso una clausola certamente esistente che minacciava pericolosamente il concilio, salva sempre autorità del Sedis Apostolici. Questa sfiducia, piuttosto che regalismo, si mostra in un strano mandato reale. I dubbi e le consultazioni da farsi a Roma dai sinodi non li dovrebbero fare direttamente i sinodi, ma attraverso l'autorità reale. E in questo io vedo non una pratica regalista, ma soprattutto la forza del re per far applicare il concilio. Questa decisione è determinata dalle notizie del Comendador Maggior di Castiglia, ambasciatore a Roma, il cui, inquieto dal ritardo della bolla papale di conferma, metteva in guardia re Filippo dicendo che il Papa aspettava che i sinodi e i principi domandassero dispense del concilio in modo di affievolire la riforma. Anzi, parla francamente dalla collera di sua santità e di tutta questa curia a causa della riforma ordinata dal concilio. Quando finalmente fu pubblicata la bolla nel mese di giugno e il Papa si lagnava dalla non accettazione del concilio in Spagna, lo stesso Comendador Maggior insisteva nelle sue allarmi. A Roma si temeva che in Spagna si dichiarasse il concilio diversamente di quello che desiderava il Papa. Volevano chiudere la porta affinché non si osservasse e aprire la porta affinché si consultasse a Roma e si dichiarasse a modo suo. I rappresentanti reali furono scrupolosamente scelti per i sinodi provinciali. Personalmente furono ben accolti e stimati dai vescovi. Nella missione diplomatica del buon compagno, futuro Gregorio XIII, le allarme venivano da Roma. Nel sinodo nulla si doveva far contro il concilio e contro l'autorità della Santa Sede. Il Papa si dolse e si mostrò scandalizzato dalla presenza dei delegati del re ai sinodi, considerata come una usurpazione. Si convertivano, dice, in interpreti e padroni del concilio, accettando o rifiutando a suo comodo. Da parte sua il Comendador fa questo commento: pensano offrir sacrificio grato a Dio, levando la libertà ai sinodi come la levarono al concilio. Ecco i termini del problema. Di fronte alla riforma, l'intervento reale fu efficace e positivo, e direi che il centro di gravidezza della politica reale fu, senza esitazione, l'applicazione del concilio. Ma, ci sono sempre dei ma, c'erano dei punti dove il peso dell'autorità reale barcolava verso i propri interessi, in quei capitoli sensibili che non furono affrontati decisamente al concilio. In base alla concordanza dei poteri, il placet regolava le possibilità dei decreti. Sotto questo placet si voleva che le eventuali riforme non turbassero le leggi esistenti, per esempio le leggi esistenti sui redditi ecclesiastici, sulle donazioni, sulle successioni, le tasse, l'appello all'abuso, eccetera. Si voleva che i decreti sinodali non cambiassero gli usi esistenti, per esempio i diritti dei patroni laici, ed il primo di tutti è il re, i problemi giudiziari visti fuori, eccetera. La segnalazione dei temi da trattarsi o da escludersi, il controllo delle consultazioni da farsi a Roma, la resistenza all'approvazione da Roma del concilio dei sinodi, sono episodi di una lunga tradizione ormai vecchia e che augura le grandi lotte e tensioni del secolo XIX. Due cose sono chiare. Non dobbiamo interpretarli attraverso la concezione moderna dei rapporti tra Chiesa e Stato, né dobbiamo pensare che la ragione si trovava in una delle due parti in questione, ma bensì capire che ognuno degli atteggiamenti è relativo all'altro e si spiega la vicenda. A conclusione possiamo sottoscrivere il maturo giudizio degli Edini. Sarebbe ingiusto condannare il cesaropapismo di Filippo II per le sue molte intervenzioni nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica e dimenticare il zelo del re nell'esecuzione della riforma della Chiesa, quando questa, soprattutto nei capitoli e negli ordini religiosi essenti, trovava forte resistenza e cercava aiuto a Roma. Malgrado la riforma tridentina non soddisfacesse le ansie dell'episcopato spagnolo, i vescovi, per ordine del re, precedettero tutti i paesi nella promulgazione dei decreti tridentini annesso dei sinodi provinciali e diocesani celebrati nel 65. Insomma, dall'atto pratico, nell'atteggiamento di Filippo II, credo che le luci sono più vistose che le ombre. Grazie. Ringraziamo il professor Silenzia della sua relazione tanto convincente e penso che lasciamo la quarto d'ora solito di pausa per prendere fiato onde avviare la discussione. Bisogna per lei respirare un pochino. Grazie. Außerordentlich tief geht, nämlich ob die zwei ersten Tagungen des Konzils von Trient Geltung haben sollten, obwohl sie noch nicht vom Papst bestätigt waren, oder ob ein neues Konzil sozusagen auf dem Nullpunkt anfangen sollte. Der zweite Teil behandelte die Haltung Philipps II. Während des Konzils. Man muss sagen, dass Philipp II. Eine sehr viel klarere Politik geführt hat als Pius IV. Selbst. Und ich habe während des Referates manchmal an Sie, Herr Lutz, gedacht, nämlich als Sie vorgestern sagten, der Kaiser Karl V. war der Meinung, dass er Karl V. besser das Wohl, das kennt, was zum Wohl der Christenheit ist, als der Papst. Das kann man auch sogar hier von Philipp II. Sagen, obwohl es nicht in der Form, niemals in der Form ausgesprochen hat. Philipp II. War ja sehr viel devoter gegenüber dem Papsttum als Karl V. Das ist unbestreitbar. Herr Pelletier hat dann die Haltung Philipps II. Während des Konzils anhand der Dokumente, darunter auch solchen, die ich noch nicht gesehen hatte, kennengelernt hatte, geschildert. Ich finde, es ist sehr bezeichnend, dass er zwar, wie das selbstverständlich war, die Konzilsreise der spanischen Bischöfe von seiner Erlaubnis abhängig machte. Das wird hier jetzt nochmal bestätigt, was wir früher schon erörtert hatten. Sondern, dass er aber trotzdem, obwohl er den spanischen Bischöfen nahelegte, eine gewisse Haltung, politische Haltung gegenüber den Legaten und indirekt damit dem Papsttum, doch die Gewissensfreiheit der Bischöfe nicht angetastet hat. Dabei sind wir, glaube ich, einer Meinung, nicht? Das muss man immer wieder sagen, weil der Begriff der Freiheit eines Konzils ebenso wichtig ist, denn die Gültigkeit der Dekrete hängt davon ab, ob die Freiheit des Konzils, und zwar die Redefreiheit und die Stimmfreiheit, also beide gewahrt bleiben. Im Augenblick haben wir in Deutschland eine heftige Kontroverse über das erste Vatikanische Konzil. Da ist in einem dicken Werk die These vertreten worden von Adler, dass das Vatikanum I unfrei war und dass Pius IX also geistesgestört war und dass infolgedessen seine ganze Approbation des Konzils wertlos ist. Nun, dann geht es aber letzten Endes auch wieder um die Freiheit des Konzils. Und es ist sicher, dass Pius IX mehrere Versuche gemacht hat, die Stimm- und die Rede- und Stimmfreiheit der Bischöfe auf dem Vatikanum einzuschränken. Bloß bleibe ich da meiner Ansicht, die ich früher in Bezug auf das Konzil von Trient geäußert habe. Es ist immer auf allgemeinen Konzilien versucht worden, die Freiheit der Konzilsväter zu beschränken oder gar aufzuheben. Denken Sie nur an die Räubersynode von Ephesus von 448 aber auch an Ephesus selbst und nachher auch an Chalkedon. Also die Versuche von verschiedensten Seiten, die Freiheit der Konzilsväter einzuschränken, sind immer da gewesen. Aber ein Bischof, Nachfolger der Apostel, der muss die moralische Kraft besitzen, um solchen Pressionen auch zu widerstehen. Das gilt für das Konzil von Trient, das gilt auch für das Vatikanum I. Das ist eine kleine Diversion. Ich will jetzt nicht etwa rekapitulieren, wie Herr Telicea Schritt für Schritt den Verlauf des Konzils verfolgt hat und die Einwirkungen des Königs Philipp II., sei es auf Rom, sei es auf den Kaiser, seinen Onkel, sei es auf die Konzilsbischöfe. Das wäre natürlich, das würde heißen, dass ich den ganzen den Inhalt vollständig rekapituliere. Aber bestehen bleibt eins, nämlich, dass Philipp II., obwohl er eben wegen der großen Entfernung zwischen seiner Residenz Valladolid und Trient nicht immer in der Lage war, der sehr schnell wechselnden Situation auf dem Konzil immer entgegenzutreten bzw. einzugreifen. Ich habe gleich am Anfang, glaube ich, war es, oder jedenfalls in einer der früheren Sitzungen dieses Seminars gesagt, dass der logistische Gesichtspunkt, dass eben die Nachrichtenübermittlung so langsam war, dass diese Entfernung des Königs von Trient verhindert hat, dass er sozusagen die Hand am Puls des Konzils hielt. Das ist unbestreitbar. Schon wenn man zum Beispiel denkt, dass sobald der Kaiser dann nach Innsbruck kam, sofort der Kaiser einen erhöhten Einfluss ausübte, weil er eben binnen 48 Stunden die Nachrichten aus Trient bekommen konnte. Und bei Philipp II. Dauerte das einen Monat. Es ist gut, dass Sie das auch erwähnt haben, Herr Telicea. Ganz besonders interessiert hat mich aber der dritte Teil, die Haltung Philipps II. Nach dem Konzil. Und da hat Herr Telicea etwas Wichtiges gesagt und nicht korrigiert. Ich hatte wohl in irgendeinem Zusammenhang gesagt, dass Philipp II. Generell Einschränkung gemacht hat, soweit nicht die Gesetze der spanischen Krone im Wege stehen. Die Cedula vom 12. Juli 1564, deren Reproduktion Herr Telicea mir mitgebracht hat, enthält keine solche Einschränkung. Ich habe das wahrscheinlich kontaminiert mit einer Erklärung wegen der Niederlande. Da ist eine solche Entscheidung natürlich aufgrund des Einflusses der Stände, der niederländischen Stände gemacht worden. Wichtig scheint mir an der Haltung Philipps II. Zur Akzeptation des Konzils, die ja eine Parallele zu dem ist, was Herr Weber hinsichtlich von über Frankreich gesagt hat, aber eben eine gegensätzliche Parallele, dass die Rolle der königlichen Kommissare auf den Provinzialsynoden. Ich habe mich schon immer gegen die Bezeichnung Caesaropapismus in den spanischen Kronen zur Zeit Philipps des Zweiten gewandt. So kann man das ebenso weniger, noch weniger als in Byzanz bezeichnen. In Byzanz sicherlich noch eher. Und ich werde nie vergessen, wie der Pater Leturia, der mein verstorbener Freund, der Chef, Dekan und Chef der kirchengeschichtlichen Fakultät an der Gregoriana, der Pater Leturia, sich immer scharf gegen die Wertung des spanischen Systems durch Pastor ausgesprochen hat. Pastor gebraucht ja diesen Ausdruck und nicht nur den Ausdruck, sondern er verurteilt die Sache aufgrund eines ganz einseitig kurialistischen Standpunktes. Und da scheint mir wichtig, was Sie gesagt haben, Herr Cenecea, dass es im Grunde für Philipp II. Darum ging, die wirkliche Durchführung der Reformdekrete des Konzils von Trient gegen die Kurie zu sichern. Das hört sich sehr fast absurd an, aber es ist richtig. Denn schon zwischen der zweiten Konzilsperiode und der dritten waren ja in Spanien Bestrebungen im Gange, die an die Domkapitel, von den Domkapiteln ausgingen, die bis dahin ergangenen Reformdekrete zu sabotieren, mit der Begründung, die Dekrete sind noch nicht vom Papst bestätigt, wenn die Bischöfe die Kapitel reformieren wollten, appellierten die Kapitel nach Rom und bekamen in Rom Recht. Und genau das, dass sich diese Prozedur wiederholte, fürchtete Philipp II. Und mit Recht fürchtete er das. Also, man darf sagen, jenseits des Streites um den Begriff Caesaropapismus, darf man sagen, dass diese Haltung Philipps II. Im Interesse der Kirchenreform war. Sie werden mich hoffentlich deswegen nicht als einen Antikurialisten einstufen wollen, aber Wahrheit ist eben Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, Herr Cenecea, glaube ich, unbestreitbar, dass Philipp II. Die wirkliche Geltung der Reformdekrete des Konzils von Trient gegen Winkelzüge auf dem Wege über Appellationen nach Rom wahren wollte. Das sind die Punkte, die ich aus dem sehr dankenswerten Referat von Herrn Cenecea herausheben wollte. Ich will jetzt am Schluss, ehe die Diskussion beginnt, noch auf eine der Fragen zurückkommen, die Herr Cenecea so einleitend gestellt hat im Anschluss an seinen ersten Teil. Die berühmte Frage, mit der wir uns schon vorher mehrmals beschäftigt haben, bestand im Jahre 1561, als es um das Problem Continuatio oder Initium des Konzils, eines neuen Konzils ging. Die Frage, bestand noch eine Aussicht auf die Gewinnung der Protestanten? Das ist natürlich immer und gerade heute für uns eine außerordentlich ernste Frage, eine Gewissensfrage, möchte ich fast sagen, an den Historiker. Ich maße mir nicht an, hier eine definitive Antwort zu geben, sondern sage nur meine persönliche Meinung. Die geht dahin, dass 1561 und zwar nicht allein wegen der Naumburger Beschlüsse der evangelischen Stände, sondern auch, weil inzwischen die Spaltung, die Kirchenspaltung, seit so große Fortschritte gemacht hatte, zumal seit 1555, seit dem Augsburger Religionsfrieden. sehe ich jedenfalls kaum eine Möglichkeit, dass das Konzil damals noch hätte eine Wiedervereinigung zustande bringen können. Ich sehe keine. Aber ich möchte, dass diese Frage der Diskussion zur Diskussion empfehlen. Jetzt hast du wieder das Wort, um die Debatte in Gang. Credo, questo era un riassunto con alcune ottime sottolineature. Adesso si apre la discussione per le domande, con il metodo accennato ancora la prima giornata. Le domande sono la cosa più seconda per la discussione. Tanti punti interessanti sia nel reparare del telecia, sia quel contributo di Jedin. Io forse voglio cominciare con una cosa che riguarda il primo parte della conferenza, cioè domandare un po' nella direzione dei presupposti interni della politica conciliare di Filippo II. Se si vede un po' la situazione ecclesiastica sia in Spagna sia nei Paesi Bassi, si deve domandare in quale direzione si è sviluppata la situazione interna della Chiesa in Spagna e nei Paesi Bassi in questo decennio anni 50. Io conosco pochissimo, solo mi domando, fino agli anni 40 si aveva, secondo la lettura ufficiale, che io, quelle cose, dominava in Spagna un riformismo di tipo piuttosto umanistico, grande influsso di Erasmo, eccetera, eccetera. Bataillon. Sì, questa sintesi, questa analisi profonda di Bataillon, ma si ha poi l'impressione che c'erano mutamenti abbastanza profondi che fanno si mutano la direzione del riformismo, la direzione degli interessi nella Chiesa spagnola. Per esempio, anche sono fatti superficiali, ma hanno carattere di sintomo quelli la soppressione di questi circoli luterani a Sevilla e Valladolid nel 59. Forse si potrebbe sapere un po' su questi mutamenti interni. Dunque, per quello che tocca la Spagna e non nei Paesi Bassi, il mutamento è stato molto molto forte nel 58 e 59. Nel 58, perché per la prima volta sono stati scoperti in Spagna dei gruppi dei protestanti. Fino al 56 si può dire il protestantesimo è una cosa molto molto poco apprezzabile, si tratta sempre di casi individuali, la più parte sono sempre degli stranieri, per esempio anche San Sebastiano, luterani inglesi, ma non è una cosa che preoccupi. Invece nel 58 è stato scoperto un gruppo abbastanza importante a Valladolid. Allora, l'impressione che si è avuto da questo fatto è stato enorme, ma enorme non soltanto, non so, nel popolino, nel ceto medio della società, ma anche nell'imperatore Carlo V. Perché, contrariamente a quanto si crede, a quell'immagine, non so, più diffusa di Carlo V, come uomo molto liberale, eccetera, le lettere degli ultimi mesi di Carlo V, scritte da Giuste, dal monastero di Giuste, dove si trovava il ritirato, le lettere scritte alla sua figlia che governava la Spagna in assenza di Filippo II, sono veramente tremende. Perché dice che bisogna fare dei processi rapidissimi, senza difesa, senza nulla, questi sono sedizioni, sono vegliacoli, se ne parlano, no? Sono lettere tremende, le lettere degli ultimi mesi di Carlo V. Allora si vede che, non so, il shock causato da questa scoperta è stato enorme. Si pensi per esempio a qualche fatto molto significativo anche. Un domenicano che è fuggito da Valladolid, l'hanno preso proprio al confine della Francia, in Navarra. L'hanno dovuto portare di notte a Valladolid perché avevano paura che la gente lo ammazzasse per la strada. E questo apparteneva ad una famiglia nobile. Allora io credo che il fatto è stato importante in un certo senso, perché questa volta si trattava di un gruppo. In questo gruppo c'erano uomini di una certa celebrità, come per esempio il dottor Cafaglia. Era un canonico, dottor, aveva accompagnato Carlo V per la Germania prima, dunque aveva una certa celebrità. Un suo fratello, che era parroco di un paese di vicino a Valladolid. Poi c'era gente di una nobiltà media, diciamo, impiegati di corte, eccetera. Dunque, è un gruppo, uomini, femmine, religiose, preti, canonici, era un gruppo. E poi io credo che ha avuto anche un influsso molto forte, un altro fatto che non rispondeva alla verità, ma infatti ha messo in timore tutti quanti, è che i primi dei protestanti appresi dall'Inquisizione, forse per quel senso di piccolo gruppo, della clandestinità, eccetera, credevano di essere molti di più. Allora, c'è stato uno che ha dichiarato che erano quasi 6.000. Allora, questo ha messo in guardia l'Inquisizione in un modo tremendo, no? Perché credevano che Valladolid, proprio la corte, era dominata dai protestanti, no? Un tabanda. Sì. Allora, la reazione è stata molto più forte. E nelle lettere di questo tempo, che adesso dovrete pubblicare quasi 500 lettere di questo momento sulla questione religiosa, si vede che dopo 4-5 mesi l'Inquisizione si è resa conto che veramente il fenomeno non aveva quell'importanza che in un primo momento avevano creduto. Comunque, da questo momento si assiste ad un cambiamento radicale, profondo in Spagna. Per esempio, io non l'ho trovato in tutte queste lettere che vanno dal mese di aprile del 58 fino alla fine del 59, nessuna lettera che parli, non so, di un po' di prudenza, un po' di serenità, eccetera, di fronte a questo problema. Allora, l'unanimità è completa. Invece, non esiste questa unanimità di fronte ad un caso molto particolare che tante volte, non so, è stato coinvolto con questa reazione antiprotestantica, sarebbe il caso dell'arcivescovo Carranza, che è un po' il tema, il mio grande argomento, no? Qui, su questo punto, ho trovato nelle lettere di questo periodo certamente una diversità molto grande. Ci sono alcuni che sono contro, ma ci sono moltissimi, poi gente di enorme qualità, arcivescovi, teologi, gente della nobiltà, eccetera, che parlano molto decisamente in favore di Carranza e contro i mareggi dell'inquisitore generale, che è stato quello che ha portato avanti. E come sanno forse tutti, questo periodo è finito con i famosi autos de fe di Valladolid, due grandi processi che finiscono con quella solennità pubblica, con la condanna di tutti gli eretici presi a Valladolid, tranne uno che fuggì in Fiandra e fu preso in Fiandra. Vuol dire che possiamo sapere il numero e i nomi di tutti quelli che partevano al gruppo protestante di Valladolid. Invece a Sevilla, porto di mare, in rapporto con l'America, molto diversa da Valladolid, città molto più grande, è stato scoperto un altro gruppo. Però molti di questo gruppo hanno potuto fuggire da Sevilla. Sono andati a Ginevra, in Germania, eccetera, eccetera, tutti questi. Allora, dopo questo momento, si è preso un irrigidimento nella situazione spagnola molto forte. Forse da un punto di vista psicologico, ci sono tante sfumature molto fine, molto delicate in questo momento, perché per esempio anche in Carlo V, in queste lettere, nelle lettere del periodo, si apprezza per esempio un senso di orgoglio che c'era prima, siamo l'unica nazione senza problemi di eresia, senza questa mescolanza, invece da questo momento non si può dire questo, allora si vede un po' l'orgoglio umiliato da questa situazione. Con questa situazione si finisce il problema protestante in Spagna in quel momento. Però io ho scritto qualche volta, rimane una cosa che ha un peso enorme nella storia, la paura. È una cosa reale, anche se non ci sono i protestanti, c'è la paura dei protestanti, tremenda, no? Allora questo fatto è molto importante. Poi da un altro punto di vista, molto significativo, quest'anno 59, viene pubblicato quel famoso Index Librorum Prohibitorum dell'Inquisizione Spagnola. Si capisce che in questo indice vengono condannate tutte le opere chiaramente protestanti, che questo certo. Ma la reazione è stata tanto forte, dominata un po' dalla direzione di famoso Melchior Cano, eccetera, che vengono condannati anche, per esempio, il Catechismo del Carranza. Vengono condannati alcuni libri di San Francesco di Borja. Vengono condannati le opere di San Juan de Ávila, poi un santo, San Juan de Ávila. Il Catechismo di Meneses, di cui fa un grande elogio Don Quixote, Cervantes e Don Quixote, il Catechismo di Meneses. E viene assolutamente vietata la lettura della Bibbia, in questo momento. Vuol dire che il 59, certamente la situazione è cambiata moltissimo, è cambiata in questa direzione. Allora, io credo che quando Pio IV ha annunciato il suo proposito di andare avanti col Concilio, la prima reazione del prete Filippo II è stata la sorpresa, perché a quel momento quasi nessuno pensava al Concilio, io credo, no? Era una cosa quasi dimenticata. Allora è stata la sorpresa, ma come fare un Concilio in questo momento? Perché assieme con la situazione spagnola bisogna aver conto, era cambiata anche la situazione francese e la situazione d'Inghilterra con la morte della regina Maria. Dunque il momento, in genere, io credo che tendeva verso un certo irrigidimento. In genere, in Europa, la Chambre ardente de Francia e anche il calvinismo in Ginevra, eccetera. Su questo sfondo si può capire meglio quella politica molto netta, molto chiara di Filippo II. Nelle lettere, qui uno schedario di tutte le lettere che ho letto per fare questa relazione, no? Nelle lettere si vede, io vorrei domandare ai tedeschi, a non c'è agli amici, nelle lettere si vede che quelli che erano più informati, come per esempio l'ambasciatore di Vienna e l'ambasciatore a Roma, in fondo non hanno nessuna speranza della concordia con i protestanti. Nemmeno spero che i protestanti vengano effettivamente al Concilio. Allora, tante volte si dice in queste lettere, dicono, parlano di questo, ma infatti non verranno, non vogliono venire, o metteranno delle condizioni. Allora, questo, o questa condizione personale, certamente facilita, non so, una linea per il Concilio in cui ormai si esclude ogni speranza d'accordo, ogni speranza di riunione comune, eccetera, eccetera, e allora è una linea molto più dritta. Per esempio, nel Vargas c'è una frase molto significativa, dice, se noi vogliamo accontentare tutti, cioè la Francia, l'imperatore e i protestanti, non faremo nulla. Allora bisogna staccarsi da questa linea e che la Chiesa faccia quello che è da sé. Non sia così dipendente da questa situazione che è irresolubile, non c'è una speranza. Allora facciamo quello che dobbiamo fare nel Concilio. Si spiega questa linea più netta, più chiara, più intransigente in fondo anche. Si spiega, io credo, perché sono arrivati a questa condizione in questo momento, sia dalla situazione interna, sia dalla situazione generale dell'Europa. Ma il cambiamento è stato molto forte in Spagna. Ancora vorrei aggiungere un'altra cosa. E su questo punto tanto decisivo e tanto fondamentale per Filippo II, cioè la questione della continuazione o convocazione di un nuovo concilio, se parla sempre in genere, ma due volte ho trovato un riferimento molto esplicito. Dunque, la validità la prima parte del Concilio di Trento in fondo significava soltanto una cosa: decreto di giustificazione. Due volte ho trovato l'accenno esplicito a questa questione. Per che ragione? Io credo che da un punto di vista, per un motivo generale, cioè è un concilio legittimo, è stato fatto nel modo normale, eccetera, allora che cosa significava mettere in dubbio un'altra volta questa questione? Ma d'altra parte, quella repressione dei protestanti di Valladolid, uno dei punti principali era questo della giustificazione. Allora era assurdo, non so, punire i protestanti in base al decreto di giustificazione e poi al Concilio dire ma quello lasciamo da parte, facciamo un'altra cosa, eccetera. Dunque era una contraddizione questo punto. E ancora una piccola cosa sul Morone di cui ieri abbiamo parlato, da aggiungere. Nell'anno 60 è stata presentata all'Inquisizione una denuncia abbastanza lunga contro il cardinal Morone, Paul e Contadini. Allora questa denuncia dipende da il cardinal di Burgos, cardinal Mendoza, che ha vissuto molto tempo in Italia, eccetera. Non so per che ragione viene fuori a questo momento, ma infatti il cardinale, che conosceva molte cose, che era vissuto in Italia molti anni, eccetera, aveva dei ricordi, direi alcuni ricordi personali, molto compromettenti per il Morone e per gli altri. Morone. E allora ha messo il suo segretario, che poi diventa vescovo ausiliare, un certo Merciante, che vede che lui prima ha parlato con l'inquisitore generale della questione, e allora l'inquisitore generale è molto interessato ad avere questa denuncia scritta. E allora vengono fuori tante piccole cose sul Morone, il Contarini e il Poli, soprattutto sul Morone. E si vede che nell'anno 51-52, nella seconda tappa del Concilio di Trento, il Morone era disposto, si dice era disposto, a lasciare da parte anche il decreto di giustificazione della prima parte per cercare un'altra soluzione alla situazione. Dunque questo avviene in Spagna l'anno 60, nel 60. E questa denuncia certamente è venuta a Roma, perché l'originale si trova tanto più circa. Vuol dire che l'anno 60, dopo la morte di Pio IV, quando nessuno sapeva quello che è capitato al Morone, che è stato in carcere, cioè, di nuovo viene in mente l'accusazione. Dopo la morte di Paolo IV. Paolo IV. È perché Morone poi è rimasto libero, vero? Allora, questa denuncia è posteriore alla libertà di Morone. E dal punto di vista di Filippo II c'è anche una contraddizione, cioè nel primo momento della disgrazia di Morone, quando viene messo in carcere, il re Filippo II, attraverso il suo ambasciatore, e anche sotto l'influenza di alcune lettere dei padri gesuiti, è in favore del Morone. E invece quando si vuole riaprire il Concilio di Trento, in questo momento, le lettere di Filippo II all'ambasciatore di Roma lo mettono sempre in guardia contro il Morone. Non conviene che sia nominato legato del Concilio di Trento, perché in una delle frasi dice ancora è troppo fresca l'inchiostro, è troppo fresco l'inchiostro, dice in una delle frasi, no? Non conviene, eppure viene nominato il Morone. Allora c'è un certo cambiamento nell'atteggiamento di Filippo II di fronte al Morone. Causa di questo cambiamento, io vedo chiarissima, è l'inquisitore generale che ha la denuncia contro il Morone. E allora guarda con molta fiducia il Morone. Allora si vede che lui, che è uno dei consiglieri negli affari del concilio, eccetera, anche mette in guardia il re Filippo dicendo questo Morone è un po' dubbio, non è sicuro, eccetera. Sull'atteggiamento di Filippo II nei riguardi della libertà del Concilio, che è un atteggiamento estremamente aperto, estremamente liberale per quello che riguarda alcune parti, e invece viene molto rigido, molto duro per quello che riguarda l'aspetto. Sì, così non c'è un semplice studio che mi veniva, era questo, se questo tuo modificato diverso atteggiamento, oltre che dovuto alla diversità della materia esaminata, non fosse dovuto anche a una diversa possibilità di influenza sulle decisioni consigliate. E allora mi veniva in mente quella questione che era stata posta dal professor Alberico, a cui ha fatto riferimento anche di Dini, proprio adesso, poco tempo fa. Sì, il secondo non ritenesse soprattutto di poter influenzare o intervenire sul concilio, ad esempio, da Roma. Allora io mi chiedevo, per il secondo, è più importante Trento o è più importante Roma? Cioè la politica conciliare si può determinare più intervenendo su Trento, e quindi qui entra in gioco la libertà di proposizione e la libertà delle direzioni dei voti, oppure si può determinare più cercando di intervenire direttamente su Roma, e allora ovviamente diventano più importanti questioni come questioni che incidono più forse sul diretto potere regno. Capito. È una questione molto, molto interessante, molto fine anche io credo. Io direi che da un punto di vista generale, per Filippo II era più importante il concilio che non la Unione Romana. Per esempio ho letto una delle frasi delle sue lettere dove vuol condurre Roma alla riforma fatta dal concilio. Avrebbe un peso molto più grande se fosse fatta dal concilio che non se fosse fatta soltanto da Roma. No? Allora il concilio da un punto di vista generale è più importante. Senza dubbio, anche per lui, il concilio è molto, molto, molto più difficile da regolare, da controllare, che non la Curia Romana. Dunque, dal punto di vista del suo interesse personale, della sua politica, forse era più facile, più semplice, combinare le cose con Roma, che non con tutto il concilio. Ma dal punto di vista generale e dal punto di vista della riforma, era più importante il concilio che non Roma. Allora io direi che nella sua politica di fronte al concilio si vede in lui, non so, un apprezzamento del concilio molto grande, e vuole che sia il concilio che determina la politica della Chiesa e anche in un certo senso non solo la riforma di Roma, in un certo senso anche la riforma di Roma. Ma ho sottolineato io questa contraddizione perché da una parte io credo che veramente lui desidera la libertà del concilio. Io ho letto quelle due frasi molto significative, non? Che cosa consiste la libertà di proporre e la libertà di decidere, e questo tocca nell'anima e sostanza della libertà del concilio. Se vogliamo vedere in confronto a questa definizione un'altra definizione della libertà tolta da una lettera di Pio IV personale a Filippo II, ecco un'altra frase: la vera libertà del concilio non consiste nel proponere ma nel concludere, deliberare e decretare, il che resta tutto libero in mano di questo concilio, come si è visto fin qui, dice Pio IV. Ma come si può concludere una cosa che non è stata messa avanti? Impossibile. Questo è certo. E poi si è visto fin qui, ma fin qui quello che si è visto è un'altra cosa, no? Di tutto diverso. Di tutto diverso. Dunque, ecco due definizioni della libertà. Io credo che veramente era in favore della libertà generale del concilio. Ma però c'erano dei punti che toccavano i suoi interessi. Io direi non soltanto i suoi interessi, ma in un momento in cui l'appoggio del re all'Inquisizione era tanto forte come in questo che ho descritto poco tempo fa, allora ogni cambiamento, non so, ogni interferenza dal concilio nella procedura dell'Inquisizione spagnola, questo non lo voleva fare. Allora il caso più clamoroso in questo momento era il caso dell'architettura locale. Per esempio, quando nel Concilio si è parlato della giustissima riserva delle cause episcopali alla Santa Sede, sott'occhio Filippo II vedeva subito, allora questo arcivescovo cosa facciamo? Lo toccava proprio nel cuore a questo punto. La commissione dell'indice del Concilio, fra l'altro, ha approvato il catechismo di Carlo, che era stato condannato e messo all'indice dell'indice di Spagnola. Allora il re scrive all'ambasciatore una carta abbastanza lunga dicendo: ma come mai è capitato questo Concilio e lei non ha avvertito questo affare? È molto contro. Allora cerca tutti gli argomenti, perché veramente è stato fatto in un modo non di tutto chiaro, non di tutto legale. Cercano tutti gli argomenti per svuotare quella decisione della commissione dell'indice, firmata anche dal cardinale di Praga, che era il prete. Le norme di questa commissione dell'indice sopra i libri, queste norme non dovrebbero essere contro le norme dell'Inquisizione spagnola. In questi punti non ammette, diciamo, la libertà, la completa libertà del Consiglio, ma nel resto che credo che veramente voleva la vita. Mi sembra che sia una contraddizione, anche se secondo. Come può volere veramente una riforma e poi dire non si tocca i privilegi essenziali del re? Questo io mi spiego in questo senso. Per esempio, uno dei punti che ho detto adesso è la nomina dei vescovi. La nomina dei vescovi, ecco, un punto che appartiene al famoso patronato reale, dunque è il re che presenta i vescovi a Roma. Filippo II faceva questo compito con una scrupolosità molto più grande che la Curia Romana, bisogna dirlo, riconoscere. Enorme scrupolosità. E allora, questo dal punto di vista legale è un privilegio, è vero, ma per lui forse politicamente anche era molto importante, ma veramente lo faceva molto bene, molto bene. E allora, quando si mette davanti al problema e dicono bisogna, non so, determinare il modo in cui devono essere eletti gli episcopi e i vescovi facendo un processo previo, eccetera, eccetera. Tu dici: ma noi lo facciamo molto bene, non bisogna toccare. Dunque non è soltanto una difesa interessata dai privilegi, ma di costumi, di usi, eccetera, che veramente facevano bene, e lui li difendeva, perché non si fidava dei mezzi adoperati dagli altri. Io credo, sono convinto, anche di fronte all'Inquisizione, per esempio. Io credo che in fondo, in tanti di questi inquisitori generali, o meno, non generali, c'era una certa fiducia sopra i metodi dell'Inquisizione romana. Una certa fiducia, c'è sempre una certa fiducia in questo tempo. Forse un atteggiamento anche nazionalistico un po' brutto, non lo so, ma c'è una certa fiducia, e in tante cose veramente avevano ragione, in tante cose avevano ragione. Allora la contraddizione bisogna capirla, bisogna studiare la contraddizione. Per esempio, anche non so, è qualche cosa che sorprende moltissimo, no? Consultazione da parte dei concili provinciali a Roma, una cosa normale. Santa Sede era molto interessata a questo e anche a rivedere i sinodi provinciali per approvarli. Normale, da un certo punto di vista. Ma però questo in concreto significava la possibilità di svuotare anche i concili provinciali. Per esempio, il signor Dina ha ricordato, io posso aggiungere anche, il concilio di Praga, questo in Portogallo. Aveva a capo uno dei grandi uomini di questa terza parte del Concilio, cioè l'arcivescovo di Praga, Bartolomeo Martirius. Allora lui era deciso anche ad applicare il Concilio a Praga, ha fatto il sinodo provinciale, veramente per applicare, letteralmente per applicare profondamente il Concilio. ma siccome i decreti sinodali dovevano venire a Roma per essere approvati, si vede che in questo momento hanno tolto parecchie cose, hanno cambiato parecchie cose, che adesso ho trovato a Roma io la lettera di Bartolomeo Martirius, una lettera tremenda, contro i curiani, dicendo nel Concilio la Chiesa Universale ha deciso questo e quell'altro. Noi abbiamo applicato veramente il Concilio e adesso tutti i vescovi della provincia mandiamo le nostre disposizioni e un tizio qualunque a Roma si toglie quello. E questa è la querela fortissima di Bartolomeo Martirius. Allora si vede che anche nel dopo concilio, nel post concilio, e si vede che in Spagna è capitato anche questo. Dunque, questo famoso commendatore Vargas, che scrive lettere molto chiare, dice: qui a Roma aspettano che da qualsiasi parte vengano domande di dispensa del concilio, sia da parte dei principi, sia da parte dei sinodi, eccetera. In modo che con queste voci che sorgono dalla Chiesa anche dai capitoli, qui arrangeranno un po' le cose determinate dal Concilio. Allora, per questo il Re dice: voi altri non dovete andare direttamente a Roma, ma attraverso me. Perché io posso dire: il Concilio ha deciso questo. Dunque, vediamo un po' più chiaro quello che si deve fare, ma non cambiare il Concilio. Io credo che è stato per questo, non per un regalismo di un altro senso. Allora, veramente volevano la riforma in tante cose, ma avevano una paura tremenda a questi cambiamenti che si potevano introdurre più tardi in questa interpretazione del Concilio, nell'approvazione dei sinodi provinciali, come infatti è avvenuto in alcuni casi. Ho mandato la parola al dottor Miele, mi pare. Sono stato particolarmente interessato alla terza parte della sua relazione, quelle che riguarda l'applicazione del Concilio di Trento. Ora vorrei porre una domanda, cioè se a lei risulta una diversità di atteggiamento di Filippo II in Spagna e nelle dipendenze del Regno, per esempio di tale regionale. E in questo caso, nel caso delle risulta, che tipo di problema si presenta altrove? In Spagna c'è il problema dei capitoli, nell'Italia meridionale certamente anche il problema dei capitoli c'è, ma non è così grave come in Spagna, a Napoli per esempio sarà un problema. Ci potrebbe essere per esempio il problema dei baroni, il problema cioè delle interferenze, e magari ci potrebbe ancora un po' ostacolare la parte del sovrano. Però la cosa che mi fa più pensare è questa, che poi nel 1563 viene creata a Napoli la figura del cardinale Real Giurisdizione, una figura troppo importante che rimarrà in vita per secoli, sarà scoperta soltanto all'inizio dell'Ottocento. E questo perché in qualche modo rientra nel discorso che lei già faceva sulle proposte della cura romana di cui non si fidava, certamente per impedire alla cura romana di menomare la giurisdizione reale. Però mi chiedo se questa figura e anche altri interventi che si sono stati attraverso i vicerei non abbia veramente impedito la situazione di Trento, e mi sento qui a una conclusione che la ripetuta più volte in una pubblicazione, non è solo, non pare una vera trova, quale dice che il Concilio di Trento non è stato mai applicato in Italia nazionale. Domando se si può ritenere qualcosa di questa affermazione la responsabilità. Non mi stava nemmeno a Filippo II. Quindi mi chiedo se rispetto alla Spagna lui non stava nemmeno a una precedente risposta. No, io non saprei rispondere a quello che è successo nell'Italia meridionale, questo non lo so. Per quello che toccava Spagna, come detto, l'anno 62 sono stati pubblicati gli atti del Concilio di Cordova, che appartiene a tutto il sud della Spagna, Poi è stato pubblicato anche quello di Toledo, in un libro apposito da lui. Ho portato qui una piccola bibliografia, se qualcuno è interessato all'argomento, qui ho tutti gli studi. Dunque, José Luis Santos Díez, Politica conciliar post-tridentina in Spagna, Roma 1969. Santos Díez studia particolarmente il periodo dalla provincia di Toledo. L'arcivescovo era imprigionato e allora partecipano tutti i vescovi della provincia, è molto interessante, pubblica anche alcuni documenti. Quello di Granada è stato pubblicato da Marín Ossete, del Consiglio Provinciale di Granada, 1565. Io non ho potuto vedere, ma padre Baggiori mi ha informato che c'è una tesi di laurea di un sacerdote di catalano di Barcellona sul Consiglio di Tarragona. E allora, sorprendentemente, per me, perché io non conosco ancora questa tesi, si vede che l'atteggiamento a Tarragona, non so su quali motivi, eccetera, ma è stato alquanto diverso. Perché, secondo mi informa il padre Baggiori, dice, vada il suo tesi, e ha mostrato le prevenzioni di Filippo II di fronte ai concili provinciali ordinati a Trento. Sospese quello della Tarraconense e ordinò che si continuasse a Barcellona in presenza di un delegato. Non conosco questa chiesa, nemmeno le ragioni per cui Filippo II ha fatto questo. Ma invece nelle altre, tutte le epistolari a Filippo II e i vescovi e gli arcivescovi, per esempio quello di Granada, eccetera, atteggiamento molto favorevole, molto favorevole. C'erano problemi misti, che sono questi che bisogna vedere da vicino, no? Per esempio, non so, le leggi che riguardano le tasse, le associazioni, i testamenti, eccetera. Dico, ma io non ho studiato così da vicino quali sarebbero le opposizioni fra le leggi del Consiglio di Trento e le leggi nazionali, non lo so. Ma il re dice no, bisogna osservare le leggi della nazione, dunque non bisogna osservare la legge del Consiglio. Non ho visto particolarmente questi punti. Per quello che riguarda l'Italia non posso sapere, perché non so veramente qual è stato l'atteggiamento in Paesi Bassi. Ci sono stati anche delle università, può darsi, probabilmente, e forse anche Montiodirin suggeriva che quella clausola famosa, salvo giure, eccetera, forse si diede nei Paesi Bassi, perché nella legge di Spagna questo non si vede, eppure tutti gli storici che rispettano lo stesso, e non si vede, forse nei Paesi Bassi, dove ci sono stati anche alcune opposizioni molto forti, contro il capitolo degli altri. Mi sembra che egli tratta di questo nella sua storia generale, di questo, i Paesi Bassi, mi ricordo. Professor Prodi? La domanda in parte coincide con questa, ma io volevo, se era possibile anche per tutti, qualche parola adesso nella discussione da Telecea, che conosce così a fondo la situazione, proprio sui problemi di politica interna del regno di Filippo II, che possono aver determinato appunto certe sue posizioni che venivano giudicate equivoche, ma che sono equivoche come equivoca la politica, cioè Filippo II ovviamente aveva dei problemi interni di progresso dell'assolutismo monarchico, quindi da questo punto di vista forse se lei dice un po' sulla questione dei capitoli della cattedrale, che ovviamente possono essere date per scontate, ma che probabilmente sono una spia per capire che questa posizione di Filippo II si inserisce in un certo processo di affermazione del potere regio. L'altra cosa che si connette appunto con quanto diceva adesso Miele è questo, cioè è molto diverso probabilmente la posizione riguardo dei domini spagnoli in senso stretto dalla posizione dei domini extra spagnoli, i quali, essendo molto più insicuri, restavano maggiori preoccupazioni, di qui le controversie a Milano, di qui per Napoli il mantenimento di una situazione, diciamo, di tipo medievale, per dire, c'è cioè una situazione preconciliare da molti punti di vista, proprio perché il muovere certi equilibri interni. Un altro punto interessante a mio avviso è quello relativo alla mente, e in questi anni mi pare, mi correggi, che si sviluppa la teoria del vicariato, papà. Questo è molto interessante, cioè spieghi un po' cosa vuol dire. L'ho spiegato la chiesa, la sa meglio di me, ma insomma, ecco, cioè il problema è che mentre precedentemente la chiesa spagnola si era sviluppata in America, poi imparata dalle sue lezioni nel 1957, quindi a Bonn ha fatto il corso su queste cose, ecco, si sviluppa sul tema del patronato reale e quindi con un diritto enorme, ma in qualche modo sulla scia della tradizione medievale del patronato regio, abbiamo uno sviluppo estremamente interessante invece dal punto di vista teologico e pratico in questi anni della teoria del vicariato regio, cioè infatti il re non è solo il patrono della chiesa e delle vite, ma è anche il vicario papale, in senso pieno, poi dopo va bene la teoria che decade, eccetera, ma che altro punto mi pare più tardi, ma questi decenni sono più tardi. Ma post-trentino, ma sempre nel 500, cioè, siamo, e anche nel 600, i grandi teorici della questione sono più tardi. Sì, fino al 1630-40, non so, ecco, quello come sviluppo di teoria, insomma, ecco, completa e consultata. Ecco. Anche per questo, per dare un esempio molto concreto, cioè il re Filippo impedisce assolutamente un contratto tra Roma e le nuove chiese dell'America. La Santa Sede non può avere rappresentanti diretti in nulla. Tutti inutili vanno bene in Spagna, eccetera, ma in America è inutile non mette piedi. È vietato qualsiasi rapporto diretto tra la Santa Sede e la Chiesa dell'America Latina. Ecco, questo può non entrarci, ma mi fa uno spiraglio per capire in qualche modo da dire politico. Sopra il problema dei capitoli, che è stato un problema molto molto forte in Spagna, dunque i capitoli, che erano tante volte abbastanza ricchi anche, opponevano una resistenza molto forte alla riforma, sia preconciliare sia postconciliare. Allora, durante il tempo del concilio, questo problema viene fuori e arriva persino al nostro Consiglio di Stato, dove è trattato, no? L'atteggiamento di Filippo II. Un rappresentante dei capitoli è venuto al Concilio di Trento per velare un po' per i suoi interessi. È stato mandato da Trento dall'ambasciatore spagnolo per ordine del re. Dunque, finito questo problema di capitoli. È stato buttato via, cacciato via da Trento. Poi, quando hanno cominciato a con questi sinodi provinciali, ancora una volta si mantiene questa resistenza. Ci sono due lettere fortissime del re al capitolo di León. Allora gli altri sono rimasti zitti perché si vedeva che non si poteva giocare col re in questo momento. Nei capitoli qui credo in cui il problema delle autonomie cittadine, insomma, cioè perché non è un problema ecclesiastico, insomma, e era connesso col problema dell'aristocrazia cittadina. Nel senso che tante volte ai capitoli appartenevano gente o si erano novità o si rappresentava un conglomerato di potere sì, che era proprio uno dei punti rimasti della tradizione medievale spagnola, diciamo anti-monarchica, non anti-monarchica. Ma io direi che forse non tanto come in altri paesi, cioè non è un problema di classe, non è un problema di novità, ma è un problema di un'istituzione che, non so, da secoli regga una certa indipendenza, immunità. Allora, quando i vescovi, applicando il Concilio di Trento, volevano visitare il capitolo cattedrale, per esempio a Pamplona, il capitolo cattedrale, che forse non apparteneva alla novità, sicuramente, resisteva a nome dei privilegi o di una situazione anteriore, eccetera, e il vescovo non poteva visitare il capitolo. Allora nel dopo concilio alla Curia Romana si è voluto anche arrivare ad una formula che in fondo teologicamente è sbagliata. Il vescovo può visitare il capitolo come delegato di sua santità, ma perché come delegato di sua santità? Come vescovo di Pamplona, non come delegato, come vescovo di Pamplona, a partire anche dalla visita del capitolo cattedrale. Allora, subito dopo il concilio, di nuovo i capitoli hanno cominciato a prepararsi per i concili provinciali. L'attuazione, l'atteggiamento di Filippo II è stato molto netto, molto secco contro i capitoli. Ma ancora nemmeno con questo atteggiamento del re è stato risolto il problema, perché per esempio molti anni dopo a Calahorra, a Pamplona ci sono tante opposizioni eccetera ancora fra il capitolo e il vescovo, ma voglio dire in questo punto concreto l'atteggiamento del re è stato molto deciso a favore. Sì. Non influiva anche in questo il tipo di struttura del governo spagnolo, cioè il sistema dei consigli divisi in senso territoriale, cioè il Consejo d'Italia o il Consejo dei Ligures, avevano in realtà. Ma in questo punto non credo, cioè i consigli erano come i ministeri moderni, no? Consejo de Flandes. Per Consejo d'Italia, cioè mentre la Francia si strutturava in un certo modo, eccetera, la Spagna si strutturava il proprio governo con dicasteri territoriali, questa è la differenza. Cioè questi sono tutti dicasteri territoriali, ma diciamo un po' per l'estero, per i domini spagnoli, no? Fiandra, Italia, America. Certo. Ma dentro la Spagna c'è il Consejo de Estado, il Consejo de Castilla, al cui appartiene tutto. Poi un altro punto, quello di America, dove ci sono due cose, patronato e il vicariato. Il patronato come istituzione canonica è molto vecchia e si trova un po' dappertutto, no? Poi il patrono laico eccetera. In questo caso il patrono è il re. Come sapete forse tutti, il patronato reale acquista un livello giuridico specifico all'inizio del secolo XVI. È nato prima di tutto per Granada e le isole Canarie, per diritto di conquista, che è uno dei fondamenti del patronato, dunque il re patrono della Iglesia di Granada. Può presentare i vescovi, i canonici, eccetera, eccetera. E poi Carlo V, abbastanza presto, ottiene che questo patronato sia più ampio e comprenda tutta la Spagna. Dunque il re è il patrono. Il vicariato è un'altra cosa. Questo patronato, specialmente sull'America, si fondava sulle celebri bolle di Alessandro VI. Giulio II, l'unico da 1518, in cui affidava ai re il compito dell'evangelizzazione dell'America. Allora, su questa base, veramente il re acquista un compito spirituale e molto qualificato, molto particolare. E in questo senso, man mano i teorici, i giuristi che pensano un po' a tutta la teoria, i giuristi scoprono nella figura del re un vicario del Papa, cioè un uomo che ha una delegazione molto particolare, unica si può dire, del Papa, di una amplitudine estrema, enorme, per tutta l'America. Dunque questo sarebbe come il rappresentante del Papa per questo compito missionario americano. Questa sarebbe la teoria del vicariato re. Veramente sull'America, dopo il concilio ci sono stati i sinodi di Lima e di Messico, 4 come Milano, 4 a Lima e 4 a Messico. Dunque ecco il dopo concilio in America, di cui io non ho parlato. Ma però anche la sfiducia di Filippo II di fronte a questo influsso, ingerenza di Roma in America, non voleva un nunzio in America, ma voleva un patriarca. E a questo momento è nato il patriarca della India occidentale, questo titolo. A Siviglia, patriarca della India occidentale. È nato senza quelle facoltà che voleva Filippo II, cioè Filippo II voleva che questo patriarca fosse come un nunzio in tutto particolare per tutta l'America, che si trovasse in Spagna e che potesse rispondere a tutti i problemi dell'America, dispense, tutte queste cose, senza venire a Roma. Allora, Filippo II, specialmente nell'ultimo quarto del secolo, era molto attento ad evitare anche i rapporti dei vescovi di America con Roma, cosa che non impediva che, per esempio, uno dei più famosi, Santo Toribio di Mogrovejo, arcivescovo di Lima, avesse dei rapporti diretti con Roma, anche contro la volontà di Lima. Perché era un problema politico, un problema teologico anche, né? Perché non dobbiamo avere dei rapporti diretti con Roma? E Toribio di Mogrovejo aveva rapporti con Roma, malgrado la. Però anche il terzo consiglio di Toribio di Mogrovejo implica per essere approvato a Roma 7-8 anni, no? Non sono rapporti simili. Also viele der zweite Test, der genau Teilnehmer ausgesucht hat. Und es ist ja auch so ein Topos, dass die spanischen Begriffe quasi immer als Block aufgezeichnet sind und so bei anderen Zahlen. Hat sich unter diesen Voraussetzungen überhaupt so etwas entwickeln können wie eine Abweichung, dass es eins von den Bischöfen gab, die also eine unabhängige Position vertreten haben, abweichend von der Mehrheit der spanischen Bischöfe und an welchen Punkten ist es eventuell dazu gekommen, aus welchen Motiven haben diese Bischöfe so behandelt und ist auch wiederum ausgeübt worden, diese Unabhängigkeit aufzugeben. Allora, questo devo domandare qui però una precisazione. Dunque, riguarda il fatto che i vescovi spagnoli sono venuti dopo una scelta del re. Domanda, signor Bospa, se ci sono dei vescovi che si sono sottratti a questa disposizione del re, che hanno operato diversamente e insomma staccandosi anche dalla maggioranza dei vescovi inviati, che non ho capito bene io se si tratta di vescovi rimasti a casa, no, o di vescovi operanti a Trento. Se a Trento tra questi vescovi tutti scelti dal re formarono un gregge molto compatto, oppure se c'erano differenza tra di loro. No? Allora, in genere formarono un gregge abbastanza compatto, ma con delle eccezioni notevolissime. Per esempio, di fronte a quei gravi problemi del jus divinum, problema della residenza, tutto il dibattito sul sacramento dell'ordine, eccetera, il grande capo era l'arcivescovo di Granada. E invece c'erano altri due, tre, specialmente quello di Salamanca, appunto, no? Che sempre si staccavano da questo ballo. Dunque, non è un blocco solido, compatto del diverso, no? Alcuni si staccano. Per che ragione? Non lo so. C'è stato qualcuno che ha fatto notare anche in questa cosa. L'arcivescovo di Granada, che è veramente il capo naturale di tutti e poi era quello più in punta, era un uomo di provenienza molto umile, Granada. Invece quello di Salamanca era di una grande stirpe, quello di Mendoza. E allora anche questo fatto può avere un certo influsso sul gruppo spagnolo a Trento. Alcuni dei vescovi provenivano dall'alta nobiltà, per esempio questo Mendoza, invece Guerrero non proveniva, ma era veramente il capitano che reggeva tutti, era di tutto diverso. Dunque non è un blocco compatto, nemmeno, no. In genere si può dire di sì, ma non assolutamente. Ma nur eine Randbemerkung. Es ist eben falsch, obwohl man die soziale Herkunft der Bischöfe berücksichtigen muss, ableiten zu wollen, ihre ganze Position aus der sozialen Herkunft. Also der Guerrero von Granada war die umile Provenienz, era il antesignano, del partito spagnolo, intendo, eh? Benché era al fianco di lui c'erano grandi di Spagna, si può dire. Mendoza, ma c'erano anche altri membri della alta nobiltà. Per esempio l'Ayala, altro molto famoso Ayala, il vescovo di Segovia, questo non apparteneva alla nobiltà, era anche di origine molto scuro, ma tante volte si è staccato dal gruppo. Per che ragione? Non lo sappiamo, forse era molto individualista, chi lo sa. Dottor Preto. Una domanda che completa il punto di vista. Si parlava prima della scelta operata da Pio II sui dati dare al Consiglio. Si conoscono i criteri di questa scelta? Cioè erano solo semplicemente ausili maggiore, scienza, dottrina, capacità di vita di lavoro del Consiglio, o si è stata anche una scelta di tipo politico? Cioè, di fedeltà, io credo che sono per il libro, cioè che poi a un certo punto si discute anche della riforma di Pio, dove quindi l'atteggiamento dei vescovi poteva essere molto importante per determinare la scelta in senso dell'atto. Io credo che fondamentalmente il criterio è stato la qualità delle persone, fondamentalmente. Allora è molto interessante vedere le liste che sono state pubblicate in un volume non citato da Levin, ma molto importante. Ma io ho visto Sì, ah bene, allora non fa niente. L'ho citata prima di... Allora, in questo libro che raccoglie tutti i documenti dal 61, 62, 63, alla fine del volume ci sono alcune liste, per esempio di Napoli. Ferrandi. Allora alla fine ci sono alcune liste, sia dalla Spagna sia dal Reame di Napoli. È molto curioso che da Napoli la lista è molto molto lunga, ma tante volte si dice l'abate di non so che è canonica, eccetera, ma non vale niente, quest'altro è molto ignorante, questa. Dunque, le note che si prendano si riferiscono alla qualità delle persone. Ma in tutta regola c'è un'eccezione. E allora, per esempio, abbiamo parlato di Mendoza, vescovo di Salamanca, ma c'era un altro Mendoza molto più forte, quello che è diventato arcivescovo di Burgos, e il cardinal Mendoza, che ha partecipato ai conclavi, eccetera. Quest'uomo è stato sempre messo da parte da Filippo II, perché era troppo forte e troppo orgoglioso, forse. Per esempio, questo Mendoza non è venuto a Trento, era un uomo piuttosto politico, viveva a Siena, mi sembra, in Italia, no? Alla terza convocazione del Concilio di Trento nemmeno è stato scelto per venire a Trento, non è venuto. E poi, quando è arrivato il momento del sinodo di Toledo, al quale apparteneva Mendoza, anche per ragioni di orgoglio personale, lui come cardinale si credeva il presidente nato di questo sinodo provinciale, e invece per altre ragioni corrispondeva ad un altro. Allora Filippo II ha detto non venga, non è venuto. Dunque, ecco qui un caso dove è stato messo da parte. Un altro caso molto interessante è quello dell'inquisitore generale, quel Valdero. Anche qui ci troviamo davanti a un uomo di origine molto molto umile, che è cominciato da giovane scrivendo in cancelleria, eccetera, ha avuto successivamente 7 diocesi, l'ultima è stata quella di Siviglia, la seconda in importanza in Spagna, dopo Toledo. Ora, quest'uomo non presideva, un'eccezione, questo non presideva. Carlo V gli ha mandato 2 volte andare in diocesi sua, lui aveva sempre dei pretesti per non andarsene. Filippo II gli ha mandato 2 volte andare in diocesi e lui non voleva. È l'unico che non ha celebrato il sinodo provinciale. Allora, le lettere di Filippo II sono abbastanza forti a quest'uomo, per dire, deve fare il sinodo provinciale come tutti gli altri. Lui si scusa parlando del capitolo di Felipe, dicendo ma no, ma è molto difficile, perdiamo il tempo, è inutile, eccetera, perché c'è tutto il capitolo di Felipe di fronte, allora è inutile pensare al signor provinciale. Ma veramente la pressione fatta da Re è stata molto forte contro questo arcivescovo di Felipe, che finalmente perdette la grazia reale, si può dire. Era molto vecchio, poi aveva quasi 80 anni a questo momento, e allora si vede molto molto da parte. Ma per questo dico, come criterio generale, io credo per la scelta di questi uomini, si cercano le condizioni personali. In un caso particolare, forse, anche ci sono altri argomenti. Ho visto, per esempio, anche in questo volume, un'altra informazione molto interessante, in cui si parla di Moroni, io non so se tutti lo conosca questo, è un po' di fronte al prossimo conclave. Allora c'è un'informazione su tutti i cardinali, su tutti i cardinali. Tante volte si dice questo non sa nulla, nemmeno il latino. Ci sono alcuni, di alcuni si dice ma è un uomo da poco, in altri si apprezza la sua qualità, come uomo, come persona, eccetera, e tante volte si aggiunge anche qualche cosa sull'atteggiamento di fronte alla corona spagnola, certamente, questo è il nostro amico, questo è molto ostile, questo è dubbio, questo è un uomo che non è chiaro, eccetera, è un'informazione molto interessante perché è molto privata, no? Non è un'informazione pubblica, ma molto confidenziale, diciamo. Allora, quello che si dice lì, veramente si sente. Dipende, alle volte è un ambasciatore, alle volte sono dei consiglieri. Un uomo, io credo molto importante in questo punto, in tutti questi affari del concilio anche, che è un uomo molto quotato di una grande scienza assieme a Vargas, è il Velasco, il dottor Velasco. Perché infatti per la scelta dei presidenti dei sindaci provinciali, questo è stato uno dei grandi consiglieri e dei grandi, di quelli che hanno ordinato un po' i punti, che cosa si deve fare, eccetera, Velasco. E invece non c'è nessuna monografia su questo Velasco, no? Che era un canonista, teologo, un uomo di vasta cultura, no? Questo era uno dei consiglieri della mi permette fare io una domanda piccola. Lei ha accennato che Filippo II alla fine si è riconciliato con l'idea di accettare la conclusione prematura del concilio. Il suo ambasciatore però non ha accettato questo e è caduto in disgrazia per non aver saputo evitare, almeno se sono informato bene, questa conclusione prematura del concilio, tanto che lui è rimasto a Trento e è morto a Trento perché non è più ritornato in patria. Non connettevo la relazione o la contraddizione eventualmente. Questo è vero. E poi vorrei aggiungere una cosa. Ieri Alberico ci parlava di quel progetto del Reformatio Principum e io mi ricordavo di una piccola cosa. Il momento in cui è stata presentata quella Reformatio Principum al Concilio coincide con delle notizie che si trovano nella corrispondenza di Filippo II con l'imperatore, in cui già nel marzo del 63 si parla di un certo desiderio da parte romana, da parte dei Papa, per finire il concilio, quando ancora non era stato fatto quasi nulla, di finire il concilio. Allora io dico, che forse una delle ragioni per cui è stato presentato poi la Reformatio Principum è per favorire la fine del concilio che si desiderava già nel mese di marzo, non lo so, ma può darsi che sia una delle ragioni. Allora, nelle lettere dell'estate del 63, l'autunno del 63, si vede che Filippo II è preoccupato da questa fretta per finire il concilio, ma ancora c'è molto da fare, ma perché finire così presto il concilio? È preoccupato, dunque personalmente non è incline alla fine del concilio, ma piuttosto restio, è contrario a questo, facciamo le cose un po' più adatte. Ma si vede che alla fine è stato convinto che il concilio finiva, o altrimenti il concilio veniva sospeso. Ha complicato la situazione anche la salute di Pio IV, che ad un certo punto è stato ammalato, tutti avevano una paura tremenda, se muore il Papa che cosa facciamo? Che cosa si fa col concilio? Come sarà eletto il Papa seguente, eccetera? Anche questo ha messo un timore tremendo nel concilio. Si è rimesso Pio IV, ma ormai era deciso a finire il concilio. Io credo che poi alla fine di questo momento quella Reformatio Principum è stato un po' il prezzo Dunque noi finiamo il concilio, non andiamo avanti con la riforma, nemmeno si fa quella reformatio principum profonda. Dunque, pareggio ad uno. E allora è stato finito il concilio in questo modo. E l'ambasciatore invece era molto deciso a favore della continuazione del concilio, il conte di Luna. Ma è uno dei casi, io credo, dove questo spostamento, questa lontananza di Filippo II diventa più chiara. Quando Filippo II, non so, prendeva notizia di qualcosa di Trento, era passato un mese e mezzo. No? Allora l'ambasciatore, per conto suo, doveva tante volte prendere l'iniziativa, e in questo caso la sua iniziativa fu contro il desiderio di Filippo II. Era stato scelto il conte di Luna perché, come ex ambasciatore all'imperatore, era informato bene sulla voglia, sulle intenzioni del re. E così lo ha scelto per questo motivo. Ma sicuro che il re non era in grado, ripeto, per ragioni logistiche, che non sono così marginali come si pensa. Era importante che la lontananza di Valladolid da Trento e la difficoltà di mandare notizie da Trento a Valladolid e di far ritornare istruzioni del re. Se mi permette, per avere un'idea dei problemi pratici da questa lontananza, vi racconto tre piccolissime storie. Una, il conclave in cui è stato eletto Pio IV. 20 giorni dopo la sua elezione, parte da Valladolid un'istruzione di Filippo II dicendo al suo ambasciatore: ecco, deve fare questo o quell'altro, perché ancora non aveva saputo che quasi un mese fa era stato eletto il Papa. Ecco una. Un'altra, quando è morto l'arcivescovo Carranza a Roma, Filippo II non lo sapeva, vuol dire che è morto 20 giorni dopo la sentenza di Gregorio XIII. 20 giorni dopo la sua morte scrive il re al suo ambasciatore dicendo: abbia molta cura con questa sentenza e l'arcivescovo faccia questo o quell'altro. La sentenza era stata fatta un mese fa e l'arcivescovo è morto 20 giorni fa, ma ancora non era arrivata la notizia di fatto. Allora, questa distanza spiega moltissime cose che mi piacciono. Professor Ruth? Una piccola domanda ancora in riguardo dell'atteggiamento di Filippo II con i protestanti. Non in Italia, ma il protestantesimo come problema dell'impero, anche europeo. Anche. Paesi Bassi, si sa che qualche anno dopo nell'esplosione dei tumulti nei Paesi Bassi, cioè dall'anno 66 in poi, Filippo II ha pensato a azioni politico-militari contro i protestanti nella Germania, cioè tentativi di risolvere il problema dei Paesi Bassi in modo offensivo. Questo è una cosa. L'altra cosa è che i protestanti nell'impero avevano una grande paura di Filippo II dall'inizio del terzo periodo del concilio, cioè paura dei protestanti in Spagna, paura di Filippo II presso i protestanti in Germania. L'atteggiamento conciliare di Filippo II, come lei l'ha risposto, mi pare chiaro: niente concessioni, il concilio prosegua così e poi si vede. Ma questa è la mia domanda: ci sono segni, accenni a un'esecuzione, a una nuova guerra contro i Smalcaldi in funzione del concilio contro i protestanti? Perché in questi anni 60, 61, 62, 63 nell'ambiente protestante sempre si parla di questa cosa. Guarda, infatti nelle lettere dell'imperatore si parla di questo. Non voleva la continuazione perché sarebbe la rottura e la guerra con i protestanti. Nel carteggio di Filippo II non ho trovato questo. Ma a proposito della prima domanda, e non ho detto tutto, si capisce, no? Ma volevo aggiungere questo. Davanti a questi sinodi provinciali, Filippo II ha ordinato ai padri di scrivere tutti quanti a Roma per fare pressione sul Papa contro la comunione subutraque spezie e contro il matrimonio dei sacerdoti, perché veramente non era sicuro che il Papa in un momento di debolezza non avrebbe fatto questa concessione all'imperatore. Allora volte, piuttosto che lui stesso, che i vescovi scrivessero al Papa dicendo: no, ma questo non concederà. Per che ragione? Perché in fondo era convinto, con questo non si risolverà il problema dei protestanti e si rovinerà il cattolicismo. Era convinto di questo. Non si risolverà il problema e si rovinerà il cattolicismo. Allora ha fatto una grande pressione su Pio IV, perché non era tanto sicuro che in un momento di debolezza Pio IV non concedesse queste cose all'imperatore. Il Papa l'ha concesso. Signore e signori, mi pare che ci avviciniamo all'ora di conclusione. Allora sì. Forse il professor Lucchini può dirci una parolina in conclusione. Una sola parola al relatore vuol dire che siamo tanto grati al professor Tenecea che con la sua suo sapere profondo sulla situazione in Spagna e anche sul tanto informato delle fonti spagnole ha fatto questa relazione a noi, benché doveva fare un viaggio tanto lungo. E ringraziamo lei, professor Tenecea, e speriamo che lei mantenga le relazioni con questo nostro istituto. Sarebbe tanto necessario, si chiama Istituto Storico Italo-Germanico, però come risulta da queste discussioni, tutte le questioni storiche, almeno del Cinquecento, toccano sempre anche la Spagna e la politica europea. Non si può capire senza capire la politica della Spagna. Dunque, tante grazie, professore.